Provate a riflettere su tutti i posti in cui siete stati nella vostra vita. Le scuole superiori, le medie e le elementari. Gli alberghi delle vacanze, quelli del lavoro. I bus, i treni, gli aerei. La prima casa in affitto, poi quella comprata. Le braccia di vostro marito, quelle di vostro padre e la pancia di vostra madre. Ma voi, esattamente, dove siete? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16 e 10 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e io sono qui. Oh, finalmente è arrivato, Dico, si dice no, che si dice che non ci sono più le mezze stagioni, giusto Pietro? Pietro La Corte è sempre presente. Oggi a Milano c'è un tempo che sembra di stare in Norvegia ed è anche per questo che odio settembre. Forse non dovrei proprio dire tutto quello che penso, però d'altra parte questo è l'impegno che ho preso. La mia impresa oggi è al secondo giorno, nel senso che oggi è il secondo giorno di questo programma, ma è soprattutto il secondo giorno in cui io ho deciso di dire tutta la verità. Comincia a dare anche i suoi frutti. Ieri il mio amico Peppo mi ha buttato giù il telefono perché gli ho detto che mi stava annoiando e quantomeno ha smesso di chiamarmi. Non so cosa accadrà esattamente con questa storia del dire tutta e sempre e solo la verità. Qualcosa succederà, questo è sicuro. C'è un profilo Facebook, giusto, perché prima Vittoria mi ha detto: ma scusami, ma la mail non la dai perché non la vuoi dare? Oppure no, è che proprio me ne dimentico, quindi oggi la do. C'è una mail di questo programma che è io sono qui @radio24.it. C'è anche un profilo Facebook che è Matteo Caccia io sono qui e lo trovate su Matteo Caccia io sono qui. E su questo profilo Facebook mi sono arrivate alcuni messaggi. Uno è di Stefano, perché questa cosa qua ha fatto scattare un meccanismo già da ieri, appena finito il programma, per cui le persone che ascoltano o che frequentano il profilo di Facebook hanno cominciato a confessarmi le loro cose. Ed è il caso di Stefano. Stamattina ero a fare colazione con la mia ex. Mentre lei dal giornale si leggeva l'articolo, parentesi, scritto veramente male, del ragazzo con cui esce adesso. Beh, un vero schifo di articolo. Però bastano un po' di adorabile pioggerellina e il tavolino di un bar sotto i portici per stare meglio e pensare che in quel quarto d'ora di colazione sono io quello figo, non il giornalista super impegnato. E poi la mia sciarpa in cotone a pois neri mi sta terribilmente bene. La verità, però, è che forse mi rode un po'. Benvenuto in famiglia, Stefano. 80024 0024 349 238 6666. Perché visto che io la considero veramente un'impresa la mia, addirittura mi arrivano gli auguri. Paola mi scrive, mi scrive una cosa, devo leggerla, non volevo farlo ma lo devo fare. Ho trovato vero il signore che ha chiamato in trasmissione ieri e ha detto che ad essere sinceri si perde tutto. Ma cosa vuol dire? Adesso Paola, cosa vuol dire vero? Cioè, e poi cosa c'è? A parte che sembro Cruciani, che c'entra Paola? Che c'entra? Ci ho pensato un po' e devo dire che ha ragione. Ormai siamo schiavi di questo sistema ed è difficile pensare in un modo diverso. Questa la passa Cruciani, la sistema lei questa. E poi un sms di ieri che è arrivato al 349-238-6666. Ma allora era falsa la storia del programma di 2 anni fa sull'altra radio? Qua mi viene a risponderti in un unico modo. Ma da mo però, cioè, questa non è una novità. Guardo Bonini perché è testimone, oltre che presente in quell'esperienza. Era, in quel caso là era tutto falso, però forse sto esagerando con le verità. 800240024 349-238-6666. Vorrei rendervi partecipi di questa mia impresa, perché è il secondo giorno e ho la sensazione che il secondo giorno sia quello più difficile, quello in cui cominciano a tremare e a vacillare tutte le tue convinzioni. Quindi vorrei sentire persone che hanno fatto una loro impresa, qualsiasi essa sia, che sia attraversare la Manica a nuoto, che sia correre una maratona, ma anche solo, presente quelli che si costruiscono la casa con le loro mani, no? Quella a modo suo, a modo loro è un'impresa, magari ci mettono anni, magari non sapevano, non avevano mai toccato un mattone e compiono quell'impresa. 80024 0024. La madre di tutte le imprese, per chi fuma, smettere di fumare. Cioè, mio padre, ad esempio, non ho idea di come abbia fatto. Anzi, papà, se sei all'ascolto, magari, me lo racconti. 80024 0024. Un giorno, era un mercoledì, credo, di 15 anni fa, lui ha detto: oggi smetto. E non ha mai più fumato, perché la motivazione è tutto, come dice lui. Ma anche, ad esempio, io ho conosciuto dei ragazzi che hanno creato un'associazione culturale in un luogo dove la cosa più lontana che ti può accadere di incontrare un'associazione culturale. Se avete fatto un'impresa come quella, 800240024 e mi raccontate come andare avanti e come continuarla. E come continuare? Non mangiare carne, ad esempio, se siete diventati vegetariani. Cioè, non mi interessa tanto quello che state facendo, è come avete continuato a farlo, perché io continuo ad avere la sensazione che qualcosa qui comincia a scricchiolare ed è solo il secondo giorno. Poi vi racconto invece una storia, una bellissima storia di uno che, a proposito di continuare e non demordere, ne sa, è un tizio cinese. Vabbè, racconto più tardi. Adesso invece ve ne racconto un'altra, aspettando le vostre telefonate. 80024 0024. Il secondo giorno è sempre il più difficile. Quando inizio a fare qualcosa, la strada sembra sempre in discesa. È un po' come se il più fosse fatto, come se la difficoltà maggiore fosse prendere la decisione e il resto venisse da sé. Come quando inizi a correre oppure andare in palestra, quando decidi di smettere di mangiare carne, di fumare, di guardare il Grande Fratello, di frequentare il tuo ex. C'è sempre una forza travolgente nel cominciare qualcosa. Il problema però è lì, che non è tanto iniziare. Il problema è poi a proseguire. Cioè, quando fare qualcosa non è più l'inizio di qualcosa, è come se il senso che aveva dato a tutto il progetto venisse meno. E quindi io comincio a concedermi qualche piccola eccezione. Penso che in fondo una fetta di prosciutto la posso mangiare, no? Che una telefonata gliela posso fare. Che se non vado a correre oggi non è proprio la fine del mondo, lo posso sempre fare domani. Sì, il secondo giorno è decisamente più difficile. Ho letto da qualche parte che per liberarsi delle dipendenze, qualsiasi esse siano, il secondo giorno è quello cruciale per capire se la decisione è seria oppure no. Ecco, ieri ho deciso di liberarmi dalla dipendenza delle menzogne, quelle piccole e quelle grandi, quelle che si dicono per comodità, quelle che si raccontano per opportunismo, insomma, dire sempre e solo la verità. Mi sono arrivati diversi messaggi via mail su Facebook che mi dicono che è molto più opportunistico dire sempre la verità che non dosarla con qualche piccola bugia. Boh, non lo so, forse è vero. Forse avete ragione voi. Però la mia non è una scelta contro le ipocrisie del mondo. Non me ne frega niente di fare crociate a favore o contro. Non voglio dimostrare niente. Tipo che il mondo è cambiato in peggio e che si stava meglio prima. Nulla di tutto ciò. Quando ero un bambino, avevo deciso di fare un corso di karate. Anzi, no, avevo deciso di diventare un campione di karate. La motivazione è così banale che quasi mi imbarazza dirla, però è la verità. Avevo visto Karate Kid e mi aveva stregato. Sognavo di avere un maestro d'arti marziali giapponese che mi chiamasse Matteo-san. Ero pure disposto a dare e togliere la cera dalla sua auto per giorni interi. Quindi mio nonno mi ha preso e mi ha portato a Gagliate, al centro Karate Gagliate, ovviamente. Al mio paese non c'era nessun centro che lo facesse. Il mio maestro non era giapponese, era di Magenta, si chiamava Walter e faceva l'assicuratore. Non era Miyagi, però era simpatico. La palestra era uno scantinato buio e umido, ci andavo due volte a settimana. Dopo il primo mese mi ero già dimenticato di Karate Kid, però i miei avevano già pagato un anno intero e non potevo mica salutare e andarmene, no? Per due anni andai alla palestra regolarmente e il terzo anno arrivò il momento di gareggiare. Ora, le gare non erano proprio dei combattimenti, erano delle specie di coreografie in cui si dovevano eseguire al meglio tutte le mosse. Era un sabato pomeriggio, la prima volta che ho fatto una gara di karate. Anzi, la prima volta che ho fatto una gara in assoluto. Eravamo più di 50. Ho passato la prima selezione, ma non la seconda. Ecco, quella fu anche la prima volta che fallì una mia impresa e che abbandonai qualcosa che mi ero proposto di finire. Mio nonno all'epoca aveva una 500 e in auto tornando mi disse che nei fallimenti c'è qualcosa di magnifico, perché ti mostrano una parte di te che tu non avresti mai il coraggio di andare a cercare. Boh, sarà. A me però piace vincerle, le gare. Anche questa che ho iniziato oggi. Quindi mio nonno mi scuserà, ma io, con il dire la verità, non mi fermo, anche se non è una gara, anche se questo è il secondo giorno. Maybe you did, maybe you walked, maybe you got around the clock. Maybe I ride. Io ho un debole per le liste. Mi piace mettere insieme le cose che devo fare io o che vengono fatte da altri. Eri già accennato alla classifica delle bugie, quelle più dette da uomini e donne tra gli 0 e i 60 anni, che sono: questo cibo è delizioso, abbiamo avuto problemi col server, sono bloccato nel traffico, mi spiace, ho perso la tua chiamata, sono contento di vederti, e poi la madre di tutte: sto bene, grazie. Ecco, prima di decidere di iniziare a dire sempre solo la verità, mi sono messo a pensare cosa poteva succedere se uno non avesse mai più mentito. Anche solo rispondendo a domande piccole e convenzionali, come gran parte delle domande che ci vengono fatte tutti i giorni. Ho provato quindi a mettere in verità le risposte della classifica, mantenendo semplicemente un certo garbo. Ad esempio, guarda, il cibo è onestamente cattivo, ma non è una tragedia. Scusami se non ho risposto alla mail, ma non avevo voglia. Sono in ritardo, però non chiedermi perché. E soprattutto, stai bene? No, non sto bene, ma spero che vada meglio. Ecco, anche solo analizzando queste piccole risposte quotidiane, mi sono accorto che spesso il timore di dire qualcosa di sconveniente, quindi di camuffarlo con una piccola menzogna, era tutto mio. Cioè che solo nella mia testa pensavo che sarebbe stato meglio dire una bugia piuttosto che la verità. E il motivo era sempre il solito: la paura di deludere. Paura di deludere le aspettative che l'altra persona aveva su di me, tipo arriverà in orario a cena, gli piacerà il cibo. Come se nelle aspettative ci fosse una piccola promessa sottesa. Quindi ho capito che in realtà la causa delle bugie che dicevo era solo la mia debolezza. E se dire la verità mi può aiutare ad essere più forte, beh, allora ho voglia di diventare braccio di ferro. E anche se oggi è il secondo giorno e quindi è più difficile per la mia impresa, ieri sera sono stato bravo. Sono andato al cinema. E quando mi si è presentata l'occasione, ho messo in pratica il mio intento. Ed è andata così. Ieri sera sono andato al cinema, al Colosseo a Milano, a vedere un film che si chiama Departors. È un film giapponese e quindi avrei dovuto aspettarmi che era una noia mortale. Al cinema ho incontrato un ragazzo che era un amico, direi, cioè è stato un amico. Ci ho lavorato insieme per 2 o 3 anni. E ieri proprio la sensazione che ho avuto è stata questa. Ci siamo incontrati, lui era lì con degli amici, con dei colleghi. In realtà era lì, non sono amici, sono colleghi. E lui è una di quelle persone che cerca sempre il modo per avere dei vantaggi professionali anche nella vita privata. Per cui frequenta luoghi, va a feste o a cene in cui ci sono persone che, sai com'è, ci diventi amico e poi è più facile lavorarci insieme. A un certo punto mi sono accorto che non stavo dicendo bugie, cioè non stavo mentendo, ma stavo sorridendo troppo. Cioè stavo sorridendo troppo rispetto a quanto fossi realmente felice di vederlo. E ho smesso di farlo. Solo che probabilmente l'ho smesso di farlo improvvisamente, quando mi sono accorto che stavo sorridendo troppo. C'è stato un attimo di silenzio e va bene, dai, ci vediamo dopo il film, mi ha detto lui. E gli ho detto: guarda, non credo, perché dopo me ne vado. E allora ciao. Secondo me sto cominciando a fare un po' di pulizia. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning, and I thought it was strange, you said everything changed, you felt as if you just woke up. 349-238-6666. È chiaro che l'impresa più forte per moltissimi ascoltatori è proprio smettere di fumare. Lucio da Napoli mi scrive: chi smette solitamente dice, visto, sono più forte della sigaretta. Invece sono riuscito a smettere quando mi sono convinto che la sigaretta fosse più forte di me e che nella competizione io ci avrei rimesso la pelle. Gli ho detto: papà, se sei all'ascolto, telefona, perché non ho mai capito com'è che un giorno hai smesso di fumare. Pronto, papà? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, senti, di questa roba non abbiamo mai veramente parlato. Aspetta, prima, tu sei mio papà veramente, lo diciamo a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Da quant'è che tu fumavi, quanto prima di smettere? Io fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno. Quindi siamo su di sigaretta. E poi un giorno, io ho detto un mercoledì prima, non no, ricordo. Era il 23 marzo 1993 ed era un martedì. Era un martedì, ok. Lunedì ho fumato 60 sigarette, poi ho aperto il quarto pacchetto mentre vedevo la televisione, ne ho fumate altre 4. E dopodiché, quando ho aperto il quarto pacchetto, mi sono detto da solo che ero un cretino. Ma scusami, però io ricordo che tu andavi a fare queste visite e la gente ti diceva: sì, guardi, lei sicuramente morirà, e niente. Poi... non avevo un filo di tosse, non avevo un filo di catarro, fumavo le non si può dire come... No, no, Marlboro Rosse si può, esatto, dire. Che sono... erano sigarette non troppo leggere, però non ho mai avuto niente. Ho smesso non per questione, cioè mi veniva la tosse, non stavo bene. Ho smesso perché è scattata forse una molla, è arrivato a una certa età, io dico sempre, adesso scherzando, comunque continuo a fumare fino a 45-46 anni, quell'età lì, poi smetti, vedrai che fai tempo a recuperare, no? Perché dicono che se devi metterci davanti un 15-20 anni riesci a recuperare i polmoni un po' puliti. Io sono arrivato a 47, ma onestamente non è stato un motivo di salute, non c'è stato nessun motivo, è scattata una molla che mi ha detto basta. Ok, e però a quel punto la motivazione è stata tutto. La motivazione è stata tutto, certo. Quindi, che non dovevo più fumare, non ho più fumato. Di fatto la tua impresa l'hai portata a casa. Sì. L'ultima cosa, papà, poi ci sentiamo dopo. Sì. Tu hai ancora voglia di fumare? No, adesso no. Sono andato avanti anni che al mattino, siccome io fumavo molto al mattino, prima di pranzo, e al mattino scendendo le scale per venire a lavorare, cioè andare a lavorare, mettevo le mani in tasca a cercare le sigarette dopo la colazione. Questo l'ho fatto per anni. Ogni tanto prendo un pacchetto di sigarette, annuso il profumo del tabacco e poi basta. Però non ho mai più tirato un tiro di sigarette, perché se avessi ripreso a fumare una sigaretta avrei ripreso a fumare. Papà, la verità, sono orgoglioso di te. Ti abbraccio. Grazie. Ciao, papà, un bacio. Ciao. 800240024, la vostra impresa che ancora non avete finito. E poi vi dirò una piccola verità più tardi, perché ho deciso che ogni giorno vi dico la piccola verità del giorno. Vi starete chiedendo a che punto sarà la borsa adesso? Guardate, noi ve lo diciamo subito. Io sono qui. Sono le 16.34 di martedì 7 settembre, è il secondo giorno in cui cerco di compiere questa impresa di dire sempre solo la verità. Visto che si parla di forza di volontà e addirittura mio papà ha chiamato per dirmi come ha fatto a smettere di fumare, c'è una storia che vi voglio raccontare che è veramente interessante. La storia, detta così, sembra orribile, cioè partire dicendo: ah, c'è una storia che vi voglio raccontare che è veramente interessante, io avrei cambiato immediatamente stazione. Vabbè. Allora, questo tizio si chiama Tei Ching Ishie, è un signore che è nato a Taiwan 60 anni fa, nel 1950. È uno che ha fatto una vita più o meno regolare all'inizio, a parte che se n'è andato da scuola quando aveva 17 anni, e poi è entrato in marina ed è emigrato negli Stati Uniti. È arrivato negli Stati Uniti ed è rimasto un immigrato illegale per 14 anni, fino a che nell'88 gli hanno dato la cittadinanza. E questa è la persona. Lui è di fatto un artista che fa delle performance che hanno a che fare proprio con la forza di volontà, perché lui mette in atto cose molto piccole, molto semplici sul breve periodo, che diventano invece una vera impresa sul lungo periodo. Cioè lui cosa fa? Fa queste performance che si chiamano One Year Performance. Lui decide che per un anno farà una cosa molto semplice. C'è qui un esempio. Per un anno c'è proprio un contratto che lui firma e mette sul suo sito. Per un anno, ad esempio, lui decide che sta chiuso in una scatola di 3,5 metri per 2,7 per 2,4 di altezza. C'è uno che gli porta da mangiare, che gli porta i vestiti, e lui per un anno rimane chiuso in una scatola. Non pensate che... no, forse è un pazzo, ma non è questo che mi interessa. È che però lo fa. L'ha fatto. In questo caso era il 1978. Un'altra, lui e una tizia, che probabilmente era la sua compagna, sono rimasti legati con una corda di 3 metri per la cinta per un anno intero, legati insieme. Un'altra ancora, non so, a me sembra magnifica questa cosa. Un'altra cosa è che è rimasto per un anno intero sempre e doveva vivere fuori, cioè non poteva andare in casa, non poteva andare negli uffici, non poteva andare sui treni, sulle macchine, sugli aeroplani, sulle navi, eccetera eccetera eccetera. Lui si chiama Tei Ching Ishie, sul profilo Facebook Matteo Caccia Io Sono Qui trovate tutti i suoi riferimenti. Era un pazzo, però è la dimostrazione che uno, se ha voglia, lo può fare. Un po' come se uno che ha 38 anni e ha 7 figli riesce a tirarli su. Pronto, Geula? Però se mi dai della pazza non è un bell'inizio. No, infatti non davo a te della pazza, Geula. A parte che Geula, perdonami, sarò franco, sai che dico solo la verità. Che nome è Geula? È un nome ebraico, lo dico anch'io sempre, ma la verità. Ma è inventato. Vuol dire libertà. Ma qual è il tuo vero nome? Geula. Ah, non è un nome d'arte. E vuol dire, scusami? Libertà, perfetto, benissimo. Potrei chiudere qui e così sarebbero tutti contenti. Invece io voglio sentire questa storia qua. Tu hai 7 figli. Sì, però non è questa l'impresa, perché no. Insomma, quello riusciamo a farla. L'impresa è cercare di convincere il mondo che i 7 figli li puoi tirare su, e intanto però puoi continuare nel tuo cervello diventare un professionista oppure realizzare i tuoi sogni. Ah, aspetta, aspetta, questa, aspetta Gheola, questa è il filippotto morale, però tu spiegami. Non è un filippotto morale, perché io lo sto cercando di fare veramente. Ho capito, ma spiegami innanzitutto quanto tempo fa hai fatto il primo figlio, con che intervalli, e poi soprattutto, perdonami, lo so, la domanda è più franca, ma perché sette? Perché sette? Perché sono venuti sette. Ho capito, ma tu sai che ci sono dei metodi, no, per evitare. Però ci sono anche dei metodi per portare un po' di positività in questo mondo. Oh, brava Gheo. Quindi i sette figli sono per portare positività. Assolutamente no. Sì. E senti, in che casa abiti? Quanto è grande casa tua? 140 metri. Beh, che però siete in nove in casa, quindi infatti a voglia. Infatti iniziamo a sentire che gli spazi sono un po' stretti. Quindi scusami, 140 diviso 9 fa grosso modo 14, tipo 17 metri quadri a testa. Sì, però non considerando che c'è una cucina, una sala, tre bagni, quindi rimane Gheola, in realtà... Che lavoro fai? Che lavoro fai? Dimmi che lavoro allora, fai. Allora, ti dico veloce. Ho insegnato in università, quindi mi sono laureata nel frattempo facendo i figli, perché è stato il primo figlio a 20 anni e a 26 mi sono laureata in economia. Ma è stato un errore oppure... Assolutamente no, innamoratissima. Mi sa che tra un po' mi prende a testate, Gheula. Quindi, a 20 anni il primo e poi in 18 ne hai fatti altri 6. Esatto, bravissimo. E tu che cosa fai? Quindi mi dicevi, sei laureata? Sì, io mi sono laureata, poi sono andata a cercare un lavoro come una stupida, pensando di poterlo trovare facilmente con quattro figli, ai tempi avevo. Sì. E in realtà mi sono state sbattute in faccia tutte le porte, anche se avevo 105 su 110 in bocconi. Ma per i figli? Assolutamente sì. Senti, ma quindi tu adesso cosa fai? Fai la mamma oppure... Allora adesso sto cercando di... Ho scritto un romanzo. Che vabbè, ma Gheula, scusami. Ma non sembra vera questa storia. Senti, l'ultima cosa che volevo chiederti è... Dimmi la verità però. Qual è il tuo preferito dei sette figli? Quello che assomiglia a me. E non hai il coraggio di dirlo? Mica ti starò ascoltando. Ho il coraggio di dirlo, sai perché ti dico? Perché lui è un uomo e probabilmente potrà realizzare quello che la società, a me donna, non ha permesso di fare. Ancora filippotto morale. Grazie Gheula, un bacio. Ciao, alla grazie prossima. Voi, ciao. Ciao. Andiamo da Roma, da Giorgio. Pronto Giorgio? Sì, pronto Matteo. Ciao, come stai? Bene, mi metti dopo Gheula, io insomma con la mia piccola impresina... Ma guarda che, scusami, ma se la tua impresa è quella che leggo qua sullo schermo, cioè, mica... Per me è una grande impresa. Ma guarda, non sto scherzando, raccontala. E niente, che io dopo 48 anni ho finalmente deciso di fare la mia battaglia contro le mie unghie e ho smesso di mangiarmi le unghie. Oh, quindi c'hai delle mani decenti che prima erano inguardabili. Sì, ho delle mani decenti, però anche dei contro, nel senso che a me mi crescono le unghie e io non so come si tagliano le unghie, insomma, cioè, quindi vabbè, mi trovo magari a graffiarmi. Ma c'è un metodo, però, guarda, te lo dice uno che se le mangia non per nervosismo, ma per rifinire, c'è un metodo per cui tu ti rifinisci le unghie senza far vedere che te le mangi. Ah, sì, vabbè. Vale certo. Uguale. Giorgio, certo. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, Matteo. Buona ciao, alla prossima. Ciao. Visto che mi chiedono qual è la verità del giorno che dovevo raccontare, allora ve la racconto, perché riflettendo sulle bugie che si dicono, mi sono accorto che di fatto parte della mia vita è cambiata. Per quanto poco, però è cambiata per colpa di una bugia. Avevo 8 anni, sono andato a fare il provino per giocare nei pulcini della squadra del mio paese, e il provino era semplicemente che tu stai lì e l'allenatore ti dice, ti fa giocare un po' al pallone. Avevo 8 anni, quindi non ero molto capace. E ovviamente, come tutti quanti i bambini, io al pallone che cosa volevo fare? L'attaccante, giusto? Perché uno che pensa al calcio pensa a fare gol. Però in quei 30 secondi in cui sono rimasto con questo allenatore, Gabriele si chiamava, cioè si chiama, è ancora vivo immagino, e mi ha chiesto, tu che ruolo vorresti fare? Io in un nanosecondo ho pensato, se faccio l'attaccante è molto più evidente se non sono capace, perché se sbaglio un gol è molto più chiaro che non sono capace di giocare a pallone. E quindi, come se nulla fosse successo, ho detto, voglio fare il difensore. Quella è una piccola verità che mi ha segnato, perché da allora io non ho mai più superato la metà campo, anche adesso quando gioco a calcetto. 800240024 sono piccole imprese che però lasciano il segno, un po' come quella di Claudio dalla provincia di Pistoia. Pronto Claudio? Buongiorno Matteo. Buongiorno, come stai? Quando facevi bene, quando si vede tutto speravo che vendessi soldatini. Perché? Non ne avevo di soldatini, scusami. Peccato. Claudio. Perché io ho organizzato 10 anni fa, partendo da un paesino di 15.000 abitanti, una delle manifestazioni che è diventata una delle più importanti in Italia. Cioè? È una manifestazione di soldatini, quelli che giocano a soldatini. Claudio, ma scusami, una delle più importanti in Italia per quanto riguarda i soldatini, credo. Certo. Ah, già mi stupisce che ce ne sia più di una, però. Ce n'è più di una, sì? Ce n'è tantissime. Come si chiama la tua? La mia si chiama Ellana, che prende il nome latino di Dagliana. Quindi ci sono degli uomini sani di mente, per lo più, che lavorano, che hanno una famiglia, che si incontrano dove e quando e cosa fanno soprattutto? Ma il fine settimana oppure solo la domenica. E viene fatto dei giochi, cioè ci sono dei regolamenti, ha presente il risico. Il risico, certo, come sì, no? Esatto, fa conto, è un po' più elaborato perché sono, diciamo, figure tradizionali. Sì. E qui con regolamenti ad hoc si svolgono o tornei o dimostrazioni per il pubblico. Ma dimostrazioni di che tipo? Per quale pubblico poi? Per il pubblico grande e piccoli. Che poi i grandi diventano piccoli, lo sa come funziona? È il trenino del babbo che compro per il figlio, ma poi certo. Lo do io. Cioè. Claudio, perdonami, ti terrei veramente tutto il tempo perché sei magnifico, però devo salutarti. Dimmi solo, no, qual è l'impresa di tutto ciò? L'impresa è stata riuscire a creare in un paesino, partendo da zero, questa manifestazione che adesso abbiamo avuto anche un articolo negli Stati Uniti. Ah, no, un articolo negli Stati Uniti? Sì, un articolo perché... Guarda Claudio, tu rimani in onda. Senti, noi adesso devo salutarti, però dopo io voglio ancora parlare con te questa cosa dei soldatini, perché ho paura che sia una patologia. Grazie Claudio, buona giornata. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ne ho bisogno. Andiamo a... C'è tempo ancora? Sì, c'è tempo. Andiamo a Roma da Sandra. Pronto, Sandra? Ciao, pronto. Ciao, scusami per l'attesa. No, figurati. Sei in macchina? Sei in macchina? Sì, ritorno. Ma stai guidando? Sto guidando, c'ho il Bluetooth. Ti sento un po' male, ma hai la radio accesa, no? No, la radio accesa. Ok, allora dimmi tutto, parla un po' più forte e dimmi tutto. Allora, niente, a me è successo che all'esame di maturità io ho una buona media e ho preso 43. E lì non volevo più continuare a studiare. Aspetta, si parla dei sessantesimi però, giusto? Perché adesso ci sono i centesimi, quindi 43 era tipo 7 più. No, 43 era poco più del 6. Ah, è vero, era 36. Guarda, E dimmi velocemente cosa hai fatto perché ti sento proprio male. Velocemente, niente, ho deciso che avrei continuato comunque a studiare. Sì. E che per mia soddisfazione personale avrei impiegato il minimo del tempo e avrei preso il massimo dei voti. Ce l'hai fatta? Ho dato 5 anni a laurearmi in architettura, sono la prima laureata di architettura della terza università di Roma. Oh, Sandra, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie a te. Basta. Sono come vola il tempo quando ci si diverte, si diceva una volta. Sono le 16:45. Allora, mi scrivono anche che probabilmente è meglio così se non ho mai giocato al calcio in attacco. Questo probabilmente è qualcuno con cui ho giocato. Io ringrazio tutti quelli che sono al di là del vetro. Ovviamente Vittoria Mussini, a cui devo dirlo, oggi la giacca non è bella come quella di ieri, però si fa quel che si può. Ringrazio però Tiziano Bonini e Alessandro Genovesi che rendono sempre possibile questo programma e soprattutto Pietro Lacorte, che nonostante tutto è sempre lì. Io intanto vi saluto, sono le 16:45 minuti e 48 secondi e io sono qui. Mi sono svegliato con la pioggia questa mattina, ho chiacchierato con l'amico che mi ospita, ho preso due tram e un autobus, ho mangiato in mensa, ho scritto una pagina, ho parlato con gli ascoltatori e soprattutto ho realizzato che il secondo giorno sta già finendo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?